Con te partirò. La luce entra dal piccolo oblò della mia cabina. In qualche modo mi costringe ad aprire gli occhi. In realtà sono piuttosto incredulo. Sono giorni o forse settimane che navigo tra tempeste, onde, vento e freddo. E no, la luce proprio non me l'aspettavo. Che stia ancora sognando? Perché sì, mamma, dopo aver scritto e letto e riletto la poesia, ti ho sognata, bella, luminosa, sorridente. Quell'immagine mi è rimasta dentro. Era così viva e vivida che sembrava vera. Mi piace pensare che forse, in un certo senso, è così. La cosa bella è la sensazione di serenità e pace che mi ha donato. E poi mi sveglio e vedo la luce, la stessa delle nostre piccole vacanze a Marina di Ascea, la stessa di quella bella spiaggia dove andavamo d'estate, la luce dell'allegria e della spensieratezza, degli anni pieni di gioia e di speranza. Com'è possibile? Mi decido ad alzarmi. Non è facile, col tuo profumo, il profumo di mamma, che invade la stanza e col caldo tepore del piumone che mi avvolge. Tutto sembra dirmi che forse è meglio restare a letto, a sognare e farsi cullare dai ricordi e dalle buone vibrazioni. Ma quella luce è troppo bella. Dopo tutto questo tempo, circondato dal grigio, mi alzo, mi preparo un latte caldo e decido di sorseggiarlo fuori. C'è un raggio di sole che squarcia a forza le nuvole e si impone su questo specchio d'acqua. È incredibile come basti un fascio di luce a migliorare le cose. L'umore innanzitutto, ma d'altra parte l'energia è vita. Dicono, non ho mai approfondito, ma lo prendo per buono, che l'esposizione al sole aumenti il rilascio nel corpo della serotonina. E ora io non so se grazie alla serotonina o a qualcosa di ignoto che è accaduto mentre dormivo, al sogno che ho fatto e all'immagine di te che sorridevi, ma mi sento molto meglio. È bastato questo raggio di sole a farmi vedere oltre le nubi che ancora avvolgono la barca. Riesco a vedere l'orizzonte, a fatica ma ci riesco. C'è una nave che si dirige verso est, dove il sole è sorto. Credo da non moltissimo, data la sua posizione. Chissà dove va, chissà chi o cosa trasporta. Non riesco a capire che tipo di nave sia, ma mi piace pensare che ci siano famiglie, bambini, amici, coppie, tutti diretti verso qualcosa di bello, da condividere insieme, come facevamo io e te. La cosa veramente assurda è che questo pensiero ora non mi fa male. Cosa hai fatto? Mamma, sei stata tu. Io ricordo solo di essermi addormentato dopo aver letto la poesia, ricordando quella volta che andammo al cinema. Andammo a vedere un film a primo turno, ma sarà stato il giorno infrasettimanale, sarà stata l'ora. La sala era completamente vuota. C'eravamo tu ed io. Io ti dissi, mamma, ho riservato la sala tutto per te, tutta per noi. Tu sorridesti e sorrisero i tuoi occhi. Chissà se sia stato solo un caso, quando ad un certo punto, alla scena del funerale di uno dei personaggi del film, tu mi dicesti che le tue segue le avresti volute senza momenti di tristezza. Le volevi come quelle americane, con il ricevimento, il buffet, la musica di sottofondo. Perché? Ti chiesi. La morte è un distacco temporaneo, una pausa della vita per come la conosciamo. E perché dovrebbe intervenire su ciò che siamo stati e abbiamo fatto? Non voglio essere ricordata con le lacrime. Preferisco che si pensi a me con un sorriso. Ora io non so perché tu abbia fatto quel discorso proprio in quell'occasione. Tu ed io da soli nella sala di un cinema, completamente inaspettatamente vuota. Chissà se te lo aspettavi, chissà se la tua mente già l'aveva capito ed era iniziato quel macabro conto alla rovescia. 10 giorni e te ne andasti. Mamma, non so se il giorno del funerale io sia stato in grado di fare ciò che avessi voluto. Le lacrime non ho potuto evitarle, e tu sai perché. Però sì, con te partirò di Boccelli, ti ho accompagnato verso l'ultimo viaggio, quello che, purtroppo, e senza che tu potessi scegliere diversamente, hai iniziato da solo. Amara ironia della sorte, la stessa canzone che ascoltavi quando eri incinta di me e che mi facevi in qualche modo ascoltare, mettendo le cuffie sulla pancia. Sarà per questo che quella canzone la percepisco come se fosse un abito su misura, cucito addosso a me. Sarà per questo che, quando l'ascolto, non cedo alla disperazione, ma riesco a sorridere. In questo momento la sto ascoltando, anche se non ci sono dispositivi attorno a me. Sento le note invadere e pervadere tutto ciò che in questo momento mi circonda. Un secondo raggio di luce squarcia le nuvole. Ora riesco a vedere distintivamente le altre imbarcazioni che, non molto distanti da me, stanno compiendo il mio stesso viaggio. Vedo qualcuno che agita la mano e sorride. Mi sta salutando. Ricambio il saluto, timidamente. Cosa hai fatto, mamma? Cos'è questa luce inaspettata che mi circonda? Lo so che sei stata tu. Da quando sei stata uccisa, pensavo di non poter più riuscire a sorridere. Quando tornavo, anche solo col pensiero, nei luoghi dove andavamo insieme, io provavo a non pensare, ma poi era più forte di me. I ricordi avevano la meglio e io mi ci tuffavo dentro col dolore che si prova sapendo di non poterli più rivivere nella realtà. E ogni giorno era una dura lotta con me stesso e con la mia forza di volontà per impormi di andare avanti. Solo che non ero io, eri tu, ma io non lo sapevo, perché non potevo vedere, non potevo comprendere. Ora invece riesco a sorridere e a vedere la luce. Anche questa è una sensazione difficile, strana per me, da ricondurre a una logica spiegazione che forse non c'è, perché logica non è. Ora invece ho capito. Sei stata tu a farmi iniziare questo strano e improbabile viaggio. Sei stata tu a farmelo affrontare in tutte le sue forme e variabili. Le onde, il muro d'acqua, il freddo, il vento. Quando pensavo di non farcela, mi sono rifugiata dal calore del tuo ricordo. E non so come, ora mi trovo qui, seduto sulla prua di questa barca, col timone in mano. Io che mai avrei pensato di guidare una barca. Io che mai avrei pensato di poter vedere di nuovo la luce e il mare allo stesso modo di come li guardavo con te. E allora forse sì, è vero. Questo viaggio lo stiamo facendo insieme. Mi stai guidando. Lo hai sempre fatto, in realtà. Sei stata tu ad aiutarmi e ad insegnarmi a sorridere, a rialzarmi e andare avanti per seguire e raggiungere i miei obiettivi. D'altra parte, c'eri tu con me quando il mare era grigio e agitato. C'eri tu quando non vedevo nulla intorno e pensavo di essere solo. C'eri tu quando ho provato ad affrontare tutto questo. Sei stata tu a dirmi e a farmi capire che era necessario mettermi su questa barca e affrontare tutto questo. Un altro viaggio insieme, il più difficile, il più inaspettato. E ci sei tu adesso, a guidarmi. Ora che vedo la luce, no, mamma, non sono arrivato a destinazione, ma vedo l'orizzonte e so di non essere solo. Nulla potrà mai sostituirti. Nessun dolore potrà mai essere metabolizzato, ma so che ci sei. Quando sei lontana, sogno all'orizzonte e manca le parole. Canta Andrea Boccelli, e io sì, lo so che sei con me. Tu, mia luna, sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Ah mamma, il miramare adesso è meraviglioso. Se ti affacci, si vede ancora il mare.